cavolo in mezzo alla sala. Muovi il corpo, mostra il talento, su e giù, qua e là. La gente canta, salta e grida. La regina della notte, sotto quelle luci colorate. La regina della notte, ti abbiamo vista piangere. Perché sei la regina della notte. Lavorare e sognare nel buio di questo fumo, vivendo in una preghiera in questa notte piena di vita. La gente canta, salta e grida. La regina della notte sotto quelle luci colorate. La regina della notte, ti abbiamo vista piangere. La regina della notte, qualcuno vuol parlare con te. Vieni a ballare pure te. La regina della notte, sotto quelle luci colorate. La regina della notte, ti abbiamo vista piangere. Perché sei la regina della notte, notte, notte, notte.